Fátima La Puente fu fidanzata con José Limón per 10 anni. Fin da prima che lui lo chiedesse, aveva compromesso il suo corpo carico di lucciole con l'uomo che le aveva messe in agitazione. Tutto cominciò in una notte di festa in campagna. Nel tardo pomeriggio avevano acceso un enorme falò nel centro della casa, in una di quelle corti interne dove si affacciano balconi e davanzali avidi di luce ma timorosi della campagna aperta. Intorno al fuoco si andavano sedendo gli invitati dopo essersi sorbiti una corrida. José Limón aveva una chitarra. Cominciò a cantare la storia del cavaliere che vaga solitario in cerca dell'amata e non ci fu bisogno d'altro perché la zia Fatima si innamorasse di lui. Non le erano mai piaciuti i tipi allegri, così rimase affascinata da quell'uomo immerso nel dolore. Era seduta di fronte alla sua voce e lo vedeva muoversi e saltare dietro al fuoco. «Per tutta la vita, amor mio». Hai voluto giocare con 2 mazze di carte, cantò. Non sai giocare con uno, amor mio, hai voluto giocare con due, continuò la zia Fatima. E José girò intorno al fuoco per andare a sedersi accanto a lei. Si stava festeggiando, come ogni anno, il compleanno del vecchio nonno, uomo svelto di mente e di pistola. Lui e suo nipote José erano gli unici abitanti dell'unica tenuta che fosse rimasta alla famiglia dopo la rivoluzione. Venivano invitati tutti gli amici di famiglia, con tutti i figli e se necessario i genitori. Per l'occasione il vecchio e il nipote arrangiavano letti in tutte le stanze e i più giovani dormivano nella stalla insieme ai più ubriachi. Si cenava nel cortile, gli invitati facevano a pezzi con le mani la carne alla griglia degli animali che esibivano la loro morte fra foglie di agave in un buco scavato per terra. Poi c'erano tacchino arrosto e peperoni ripieni, fichi d'india con cipolla, salse variopinte, liquore di agave o di ananas e sedano. Le vecchie sorelle Limon passavano giorni a preparare i biscottini di Santa Clara, torrone e dolce di latte per togliere il sapore di sale e peperoncino, prima che la sera cadesse lenta ed euforica, con i combattimenti di galli e le corride, tra sangue bevute e imprecazioni. Quella notte persino i cavalieri di Colombo si lasciavano andare e nella baraonda si arrivava a permettere che le donne tirassero mattina cantando con uomini sconosciuti senza doverli per forza sposare il giorno seguente. Per questo José e Fatima poterono andare ad assistere al parto di una mucca che non aveva rispettato la festa. José e tre braccianti tirarono fuori il vitello davanti a Fatima, che aveva la gola stretta dall'orrore. Era ancora buio quando si mossero verso la casa. Le stelle si affollavano in cielo e lei si rannicchiò nell'abbraccio di quell'uomo brusco, che l'alba aveva trasformato in un rifugio caldo e persuasivo. Chissà quale sarà stato il suo fascino particolare. La zia Fatima non lo seppe mai con chiarezza, le bastava riconoscere l'urgenza del suo desiderio e la vertigine che ne ricavava era tale da farle capire perché le sue amiche si sposassero una dopo l'altra, partorissero, cucinassero e dormissero in letti pieni di trine e guanciali, pur di dedicarsi qualche volta a quel gioco che lei e José praticavano tanti pomeriggi nella brandina disordinata alla fattoria. José Limón non si sposerà mai, le ripeteva sua madre tutto il giorno. Lo so, rispondeva lei tutto il giorno. La gente diceva che era ostinato e distante, arrogante, rabbioso, egoista e superbo. Raccontano inoltre che avesse un corpo vigoroso e mani molto grandi, che il suo sguardo sembrava nascondere un segreto e che pur possedendo negozi e fabbriche si ostinasse a mandare avanti la fattoria per assecondare la follia di suo nonno, come se non avesse alternative, come se la vita non gli offrisse strade meno scomode e pericolose. A quei tempi i fidanzamenti erano lunghi, ma mai come quello della zia Fatima. Dopo i primi 2 anni, dopo che con la morte del nonno era venuto a mancare l'ultimo motivo per non disfarsi della tenuta e tornare in città, alla vita tranquilla e alla fidanzata che lo aspettava, tutti cominciarono a domandarsi e a domandare quando sarebbero avvenute le nozze. Solo la zia Fatima aveva sempre saputo che non c'era un quando. José Limón era inafferrabile, non avrebbe mai offerto una casa né a lei né a nessuno. Erano altre le sue mire. Lei non rimpiangeva di averlo amato così fin dal principio perché non c'era altro modo. Mettersi a supplicare con lui sarebbe stato inutile, avrebbe forse significato perdere tutto quello che c'era tra loro. Perché tra loro c'era qualcosa, che non era certo la pace e il buon senso cui gli altri aspiravano, ma che assomigliava piuttosto alla guerra che rende solitari e inquieti. Dopo 10 anni di questo scandaloso e eterno fidanzamento, José Limón fu assassinato dagli agraristi. Almeno stando a quanto si disse in città. Soltanto gli agraristi lo odiavano perché aveva intestato la sua tenuta a tutti i suoi parenti. Non sono stati gli agraristi, affermò recisamente la zia Fatima, prima di baciare il cadavere ancora per terra. Si inginocchiò accanto a lui e lo accarezzò con una mano, appoggiando l'altra sulle mattonelle umide. Lo sollevò, senza l'aiuto di nessuno, come se fosse abituato al peso di quel corpo enorme. Lo pettinò, gli chiuse gli occhi, le accarezzò a lungo le guance gelide. Chiese ai braccianti di scavare una fossa sotto il frassino, vicino alla casa. Fece procurare una stuoia per avvolgere il suo tesoro e lo vegliò tutta la notte tra lacrime e candele come un indio. Il giorno dopo camminò davanti agli amici che la portarono a spalle e lo gettarono nella terra scura, come se le disposizioni della fidanzata fossero quelle di una vedova con tutti i diritti. Nessun altro potrà intromettersi nell'organizzazione della cerimonia, né i fratelli, né gli zii, neppure la madre. Più tardi la zia Fatima scrisse nel suo diario: «Oggi abbiamo sepolto il cadavere di José, versando lacrime su lacrime, come se la sua morte fosse possibile. Entro domani si saprà che non è mai stato più vivo di ora e che non potrà mai morire prima di me. Perché non basterebbe la terra intera a coprire la luce del suo corpo verso sera, né il vento più forte a far tacere la sua voce sommessa. José mi appartiene, le nostre vite si sono incrociate e mai nessuno potrà togliermelo dagli occhi e dall'anima. Per quanto si possa credere morto, nessuno può uccidere la parte di sé che ha fatto vivere negli altri». Non si sposò mai, non desiderò nessuno e a nessuno venne in mente di desiderarla. Ai bambini sembrava affascinante e misteriosa, non aveva figli, non prendeva posizione nelle contese, non la si udì mai gridare o ridere forte. Non la si vide mai piangere in chiesa, né ai funerali, né a teatro, né a Natale. In compenso la si udì spesso cantare. I pomeriggi di maggio si portavano i bambini a offrire fiori e la zia Fatima cantava nel coro con la sua voce intensa e triste. Quello che sarebbe stato un rituale sottotono, di bambini in fila che colpiscono col fiore quello davanti, si trasforma con il suo canto in una cerimonia per privilegiati. Ancora adesso, a ricordo della sua voce, vanno in subbuglio le lucciole di altri corpi. Quando morì la zia Fatima, 50 anni dopo José Limón, la seppellirono sotto lo stesso frassino. La sera in cui si coricò per morire, scrisse sul suo diario: «Credo che l'amore, come l'eternità, sia un'aspirazione, una bella aspirazione degli esseri umani». Un giorno il marito della zia Magdalena aprì la porta a un messo che portava una lettera per lei. Non avevano segreti e vivevano talmente in simbiosi da poter aprire le lettere indirizzate all'altro senza minimamente temere di essere accusati di indiscrezione o di scorrettezza. Per cui, quando ricevette quella busta, così bianca, così liscia, con il nome di sua moglie scritto in una calligrafia decisa, l'aprì. Il messaggio diceva: «Magdalena, poiché tutte le volte che tocchiamo l'argomento finisci per piangere e ti confondi nella follia di amarci entrambi con la medesima intensità, ho deciso di non vederti più. Non credo impossibile liberarmi del mio desiderio per te. Prima o poi bisogna svegliarsi dai sogni. Sono sicuro che riuscirai a dimenticarmi. Porrei fine a questo disordine. Farà bene a entrambi. Torna ai doveri che tu stessa hai scelto. Non mi chiamare, non cercare di convincermi di niente. Alejandro. PS. Hai ragione. È stato bello». Il marito della zia Magdalena ripose la lettera, incolò la busta e la lasciò sul vassoio della posta insieme alla bolletta del telefono e agli estratti conti della banca. Era furioso. Per la rabbia aveva le orecchie in fiamme e le lacrime agli occhi. Andò a rifugiarsi nel suo studio, anche se in casa non c'era nessuno. Sua moglie, le bambine e i figli erano andati alla sfilata del 5 maggio in memoria del giorno in cui il Sacapotlas avevano assestato un duro colpo al prestigio di Napoleone. Si sedette allo scrittoio ansimando, si reggeva la testa con le mani. Se c'era qualcosa che amava e rispettava senza riserve era il corpo e la saggezza di sua moglie. Come si poteva osare scriverle a quel modo? Maddalena era una regina, un tesoro, una dea. Maddalena era un pane, un albero, una spada. Era generosa, onesta, coraggiosa, perfetta. E davanti ad un suo ti amo, chiunque sarebbe dovuto cadere in ginocchio. Come poteva farla piangere? Beve un whisky, poi due, picchiò in terra una mazza da golf fino a spezzarla. Rimase 20 minuti sotto la doccia, mise sul giradischi il Beethoven più disperato e quando sua moglie e i bambini tornarono a casa, 2 ore dopo, era dissimulatamente tranquillo. Avevano preso molto sole, avevano tutti la testa un po' confusa e il viso accaldato. La zia Magdalena si tolse il cappello e andò a sedersi accanto a suo marito. «Ti servo un altro whisky?» disse dopo averlo baciato come un fratello. «No, basta. Siamo a cena dai cabion e non voglio arrivare ubriaco.» «Siamo a cena dai cabion? Non me l'avevi detto?» «Te lo dico ora.» «Te lo dico ora. Mi fai sempre lo stesso scherzo. E non ti arrabbi mai. Sei una moglie perfetta.» «Non mi arrabbio mai, ma non sono una moglie perfetta.» «Sì che sei una moglie perfetta, e sì, portami un altro whisky.» La zia si avvicinò alla bottiglia al ghiaccio, versò il whisky, lo agitò, ne versò un altro per sé, quindi tornò da suo marito con un bicchiere in ogni mano. Era davvero bella Maddalena. Era una di quelle donne che per essere belle non devono far altro che alzarsi la mattina e coricarsi la sera. Ma la zia Maddalena si coricava anche in altri momenti della giornata, piena di passione e sensi di colpa, il che negli ultimi tempi le aveva conferito un passo fermo e un tremore nelle labbra con i quali la sua aria angelica aveva guadagnato giusto quel pizzico di malvagità necessario per apparire divina. Andò a sedersi ai piedi di suo marito e gli raccontò gli avvenimenti della sfilata, fornendogli la lista completa di chi occupava i palchi della casa del circolo spagnolo. Schizzò quindi su un pezzetto di carta un nuovo disegno per le porcellane di Talavera che avrebbero dovuto produrre alla fabbrica. Parlarono a lungo dei problemi che gli accaparratori di fagioli stavano causando al mercato La Vittoria. Per tutto questo tempo la zia Maddalena si sentiva osservata in maniera insolita da suo marito. Mentre parlava, la interrompeva continuamente per accarezzare la fronte o il viso, come se avesse voluto fermare ogni suo gesto di gioia. «Mi stai guardando in modo strano», gli disse lei a un certo punto. «Ti sto guardando», rispose lui. «In modo strano», ripeté la zia. «In modo strano», assentì lui, e continuò la conversazione. Quale uomo al mondo poteva permettersi di perdere quella donna? Solo un pazzo. Tornò a prendersela con l'autore delle lettere con se stesso, per non averla nascosta almeno fino al giorno seguente. Così sua moglie l'avrebbe trovata la mattina, quando né lui né i bambini avrebbero disturbato la sua tristezza. Si alzò quindi dalla poltrona con la scusa che era tardi e mentre la zia Magdalena andava a dipingersi le labbra, andò in anticamera e tolse la lettera dal vassoio della posta, che era appoggiato su un tavolo antico appartenuto alla bisnonna della zia Magdalena e provvisto di un cassetto tarlato. Vi rinchiuse la lettera e respirò, felice di posticipare il problema a sua moglie. Trascorsero così una serata tranquilla e piacevole. Il lunedì, prima di andare in fabbrica, mise la lettera sopra tutte le altre. La zia Magdalena si era svegliata di buon'ora, raggiante. «Deve essere perché ce ne andiamo», pensò il marito. Effettivamente, alla zia Magdalena piacevano i giorni feriali. Chissà come o quando si incontrava con quell'infame, ma certo avveniva nei giorni feriali. Salutandola, le disse come al solito: «Se hai bisogno di qualcosa, sono in fabbrica», e la baciò sulla fronte. Magdalena beve allora l'ultimo sorso del suo caffè e diede un morso alla fetta di pane e burro di cui avanzava sempre un pezzettino. In ossequio a chissà quale disciplina dietetica, quindi si alzò da tavola e andò a vedere la posta. Allora trovò la lettera. Se la portò nel bagno, accanto alla sua camera da letto, che era ancora un caos di salviette umide e pigiami tolti in fretta e furia. Seduta per terra, aprì la busta. Le salviette non le bastarono ad asciugare il fiume di lacrime che versò. Pianse tanto e con tale veemenza che se la cuoca non l'avesse salvata dal baratro, domandando le istruzioni per il pranzo, il bagno si sarebbe allagato. Rispose di preparare minestra di funghi, carne fredda, insalata, patate fritte e torta di formaggio, senza alcun dubbio e esitazione, e a una velocità tale che la cuoca non le credette. Ci volevano sempre ore per confezionare il menù e Magdalena aveva contagiato la ragazza con le sue manie. La minestra è color caffè e la carne anche, disse la cuoca, sicura che ci sarebbe stata una modifica. Non importa, le rispose la zia Magdalena ancora in pieno lutto. Il marito tornò presto dal lavoro come quando erano sposati da poco e lei era raffreddata. Andò a cercarla, sicura che per il dolore si fosse messa a letto fingendo qualche malanno. La trovò seduta in giardino mentre aspettava il suo turno per saltare la corda in una gara che le sue due figlie e una cugina consideravano di livello olimpionico. Stava contando i salti di sua figlia che era ormai arrivata a 103. Le altre due bambine reggevano la corda per le due estremità e la facevano girare cantando all'unisono. «Gioco da donne», disse il marito, che non aveva mai capito che gusto ci trovassero a saltare la corda. La zia Magdalena si alzò per dargli un bacio. Lui le mise un braccio intorno alle spalle e l'ascoltò mentre contava i salti della bambina. Poi 112, 113, 114, 115, 116. Hai pestato la corda, gridò ridendo. Ora tocca a me. Si staccò da suo marito e volò al centro della corda. Le brillavano gli occhi, aveva le labbra contratte e le gote più rosse che mai. Cominciò a saltare in silenzio, le labbra strette e le braccia aperte, concentrata sulla voce delle bambine che contavano in coro. Quando arrivò a 100, la sua voce cominciò ad alzarsi come un mormorio al quale si appoggiava per continuare a saltare. Il marito si unì al coro. Quando vide la zia Maddalena arrivare a 117 senza aver pestato la corda, cullato da quel canto, la zia saltava sempre più veloce, superò il 200 come un fulmine e continuò a saltare fino ad arrivare a 705. Ho vinto! Gridò allora, ho vinto! E si lasciò cadere a terra per alzarsi subito dopo col vigore di una fiamma. Ho vinto, ho vinto! Gridò correndo verso suo marito. Fortunata al gioco, sfortunata in amore, disse lui. Fortunata in tutto, rispose lei ansimante. O hai intenzione anche tu di dirmi che non mi ami più? Anch'io, disse il marito. Marito, sei uno spione della corrispondenza altrui e hai usato una pessima colla per nasconderlo, disse la zia Maddalena. Tu invece nascondi bene i tuoi sentimenti. Non sei molto triste? Un po', disse la zia Maddalena. Se io me ne andassi, potresti saltare la corda? Domandò lui. Credo di no, disse la zia Maddalena. Allora rimango, rispose il marito, respirando sollevato, e rimase. Nella casa accanto a quella della zia Cecilia morì una vecchietta. La zia vide uscire la cassa dalla grande casa di pietra tanto simile alla sua e la ricordò come era negli ultimi anni, sempre sporca, sempre intenta a parlare con i suoi gatti. Si grattava la testa a un tempo coperta di ricci chiari, ancora lucenti nei ritratti color seppia della sala. Andava e veniva per la casa, dove si affollavano i vasi cinesi, i bicchieri di baccarà, i dipinti del vicereame, i santi martiri, le lampade dai cristalli azzurri, i lampadari francesi, le seggioline dorate, le poltrone rigide dai braccioli stretti, le vetrinette e zeppi di porcellane, i mille centrini intessuti nella sua noiosa giovinezza, i tappeti persiani, le sete cinesi, i letti di ottone con i loro materassi di piuma che odoravano della polvere di tre generazioni, gli armadi di legno lavorato, i cassettoni di Bollè e i tavolini di madreperla, le sedie di vimini austriaco, il corridoio con le sue vetrate colorate, la grande collezione di orologi sistemata nella sala per segnare il tempo con campane di tutti i tempi. Passava molte ore davanti agli orologi. Lì la zia Cecilia la trovava più spesso che altrove e lì rimaneva a chiacchierare con lei delle cose che le passavano per la testa e che ne facevano la più affascinante raccolta di storie che la zia Cecilia avesse mai ascoltato in vita sua. Erano spesso storie sconclusionate che iniziavano con il racconto dei pessimi servigi della cuoca e terminavano con la descrizione della bellezza dell'imperatore Massimiliano o dell'imbecillità di un fidanzato che aveva chiamato Anticaglia un dipinto di Adamo ed Eva del XVI secolo, appreso tra i quadri dell'anticamera per dissimulare il suo valore, forse uno dei primi quadri dipinti nella Nuova Spagna. Quelle storie narravano cose mai sentite tra i suoi equilibrati familiari. Alla zia piaceva ascoltare quella che faceva diventare la vecchietta rossa di rabbia, la storia del fratello traviato che si era messo con una poco di buono con la quale aveva generato tre figlie che lei non aveva mai conosciuto né avrebbe mai voluto conoscere. La vecchietta parlava di quel suo fratello alto, bello, che aveva commesso l'enorme sciocchezza di mettersi con una donna di strada che naturalmente non aveva portato in casa. Il fratello era morto pentito della sua perdizione, in preda agli spaventosi dolori con cui Dio lo aveva castigato per il suo errore. Lei non avrebbe mai permesso che un'insana passione la turbasse. Le insane passioni si soffocano con acqua fredda, con un cordone stretto intorno alle gambe, durante la prima messa del mattino, o nel migliore dei casi, rideva la vecchia con i suoi due denti, con una zuppa di pesce e un bicchiere di ostriconi freschi prima di colazione. Si rimane schifati di tutto. La mamma della zia Cecilia considerava la vecchietta una dimenticanza del diavolo sulla terra e le aveva proibito di andare a trovarla. A volte la zia Cecilia, per convincerla, le descriveva in che stato di abbandono e sporcizia vivesse, senza riuscire a suscitare in sua madre neppure un briciolo di pietà. È soltanto ciò che si merita, si era limitata a dire sua madre, donna devota e caritatevole come poche. A ogni modo, la zia Cecilia non perdeva l'occasione di sgattaiolare a casa della vecchietta per mettere il naso dappertutto, cercando di scoprire che cosa mai tenesse nascosto negli armadi con tanta cura. Non riuscì mai a scoprirlo, ma la vecchietta viveva per questo. Di tanta sporcizia, tanta pena e tanta roba, morì infine all'età di 97 anni. Dalla stessa porta uscirono le sue polverose ossa ed entrarono le figlie del fratello con i loro mariti, i loro figli e i loro nipoti per portar via tutto. E vendere nel giro di 24 ore agli antiquari di mezzo mondo. È stata colpa sua, disse la mamma della zia Cecilia, e per la prima volta in vita sua enumerò i peccati di qualcuno: per aver terrorizzato suo fratello, per aver fatto impazzire sua sorella, per la sua smania di custodire tutto come se uno potesse portarsi i vasi cinesi al purgatorio. No, mamma, disse zia Cecilia, ricordando l'unica volta che aveva visto piangere la vecchietta. La colpa è di quel tale che non ha saputo conoscere un dipinto del XVI secolo. Con il passare degli anni e il cambiare dei tempi, la zia Cecilia, figlia unica, si sposò con un uomo chiacchierone e generoso, tanto disastroso negli affari quanto geniale nella fecondità, così che in meno di un decennio la zia ebbe 6 figli e vide sperperata la sua eredità. Quando ormai non era rimasta loro che la casa di Reforma, si trasferirono in periferia e la zia Cecilia aprì un negozio di antiquariato. Inizialmente vendeva i beni di famiglia alla massa di arricchiti in cerca di un passato illustre. Più tardi si trovò con una catena di negozi sparsi per tutta la Repubblica. Stava cercando oggetti per aprire la succursale di San Francisco in California quando si presentò nel suo negozio di Reforma una ragazza dai riccioli chiari che aveva nel bagagliaio della macchina una collezione di orologi antichi, un lampadario dai cristalli azzurri, una cornice con una fotografia di donna color seppia e l'Adamo ed Eva del XVI secolo. Vedendola arrivare, la zia si sentì addosso tutto il peso dei suoi 40 anni. Quanto ci dà per queste cianfrusaglie? Domandò al ragazzo che teneva la ragazza per la vita e la baciava di quando in quando. Dove avete trovato queste cianfrusaglie? Chiese la zia Cecilia rivolta alla ragazza. Erano in casa di mia nonna, rispose la ragazza. Credo che appartenessero a una zia maniaca, non so. Ho sentito parlare di lei poco e male. Per questo le voglio vendere. Non emanano buone vibrazioni. Però si pagano bene, vero? Domandò al ragazzo. Sì. Si pagano bene, rispose la zia Cecilia. Pensa che dovrei tenermele? Domandò la ragazza in un attimo di indecisione. No, figlia mia, disse la zia Cecilia e avrebbe voluto aggiungere, ma non lo fece, meglio male accompagnata che sola. Perché ricordava l'immagine della vecchietta, tra gatti e quadri, sporca e dimenticata da tutti, che le prometteva con l'avidità di una mendicante: se torni domani, ti regalo l'orologino azzurro. Il brillante orologino azzurro che ora aveva in mano.